Essere e benessere di Nicoletta Carbone. I vizi capitali, a volte chiamati anche peccati capitali, voi sapete quali sono? Ve li ricordate dalla memoria storica, magari dalla vostra partecipazione al catechismo? Ve li ricordo io, ma voi annotateli per bene, perché voglio proprio chiedervi qual è quello che vi vede, direi, più vulnerabile, quello che racconta maggiormente la vostra area critica, insomma, quel settore della vostra vita che, per dirle con le parole di un architetto, necessita di una buona ristrutturazione. L'accidia, ovvero la paura di affrontare la vita con le sue frustrazioni e le sue prove, fuggire di fronte a noi stessi e a ciò che percepiamo come vuoto. L'ira, perdere la capacità di controllo e l'uso della ragione quando qualcosa ci disturba. La superbia, l'ininterrotto innamoramento verso la propria presunta superiorità. La gola, ovvero l'incapacità di mettere la testa davanti alla pancia. L'avarizia, la convinzione che si vive per possedere e non si possiede per vivere meglio. L'invidia, una vita all'insegna del motto che l'erba del vicino è sempre più verde. La lussuria, ossia l'incapacità di mettere la testa davanti a ciò che sapete bene anche voi, senza bisogno che ve lo diciamo noi. Insomma, abbiamo fatto un breve ripasso, li abbiamo ascoltati uno per uno: accidia, ira, superbia, gola, avarizia, invidia, lussuria. Qual è il vostro vizio capitale che necessita di una ristrutturazione intensa? Come lo tenete sotto controllo? Come lo coltivate? Ma magari può succedere anche questo. Il messaggio più interessante riceverà, in collaborazione con IBS, un libro della collana di Raffaello Cortina Editore dedicato al vostro vizio capitale. Insomma, vi mandiamo a casa un manuale su misura proprio dedicato al vizio capitale che più vi riguarda. Intanto saluto Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Che oggi ci accompagna in questo viaggio nei sette vizi capitali. In generale dei vizi capitali, Alberto, se non sono sempre occupati i preti nel passato. Oggi lo psicoterapeuta può essere considerato l'equivalente del prete del passato, ovvero, Alberto, c'è qualche assonanza tra il concetto di peccato e il concetto di quello che voi definite disagio emotivo? Ma direi di sì. Nella stessa parola vizio credo che ci sia il tema della vulnerabilità, aree della nostra vita su cui non abbiamo un controllo totale, che spesso controllano la nostra esistenza, e mentre ci buttiamo dentro a queste cose che chiamiamo vizi con l'intenzione o implicita di trovarne una giusta felicità, spesso ci accorgiamo che proprio perché in realtà entrano in collusione con aree di vulnerabilità, non ci rendono più liberi, ma ci rendono molto più intrappolati in schemi, in modi di essere e di agire che ci tolgono la libertà e ci allontanano dalla felicità. Ma noi abbiamo chiesto rinforzi ad un sacerdote. E che sacerdote? In linea con noi abbiamo Don Mazzi. Ciao! Ciao. Senti, mai beccato proprio. T'ho beccato. Senti, sì, anche perché non è che io sono santo. Beh, meno male, no? Non sono santo e ho paura che anch'io vizi capitali ne ho più dello psicanalista lì, capito? Sì. Quindi non è che dopo ho finito l'incontro devo andare lì in psicanalisi, no? Dico. No, magari, cosa dici Alberto? No, c'è no, il no. Rischio? Don Mazzi, non lo facciamo venire nella stanza del terapeuta. Senti, Don Mazzi, i vizi capitali corrispondono tuttora ai peccati che la Chiesa indica all'uomo come pericolo per l'anima, oppure secondo te sono stati superati, diciamo un po' così, dalla modernità, insomma, siamo un po' cambiati? Ma io, sai, devo dirti che c'è un vizio capitale che io metterei per primo e che rimane il vizio capitale dal quale dipendono un po' tutti, che è l'ipocrisia. Hai capito? Quindi lo mettiamo come... Ma metterei per primo, va bene. Dalla ipocrisia, cioè il sembrare non essere, il fare, no, il dire non fare, capito? Il avere le maschere e far sempre qualche cosa, va bene, che c'entra e non c'entra con la nostra maturità. Imbrogliarci, ecco, secondo me l'ipocrisia è il vizio più terribile perché imbroglia noi stessi, mi spiego? Sì. Continuiamo a non essere quello che siamo. Don Mazzi, ne parlavamo prima con Alberto. Per l'uomo moderno, quanto prima si andava dal prete, no? E adesso mi sembra un po' che per molti di noi la figura del prete sia stata sostituita un po' da quello dello psicoterapeuta. Ma è un po' l'uno un po' l'altro. Noi preti devono ormai essere meno preti, meno giustizieri quando confessiamo e ascoltare molto di più. Lo psicoterapeuta ha una saggezza in più di noi preti, perché noi siamo diventati il confessionale, l'abbiamo scambiato come un tribunale, che è l'errore più grave. Perché se invece usassimo il confessionale proprio come luogo dove si riflette, ci si domanda, non c'è bisogno poi di tirare un segno di croce per dire sei assolto o non sei assolto, allora forse saremmo un po' anche terapeuti e magari, hai capito, non escluderemmo, ecco, la terapia, perché non molti preti, per esempio, no, si tengono a dire che la confessione vale molto di più. In certi casi la confessione è chiaro che ti fa un passaggio nel soprannaturale, in un mondo che è al di là dello psicoterapeuta e che accetta la fede oltre che la scienza e oltre che l'autoanalisi. Però siamo troppo semplicisti e vorrei dire troppo giustizialisti noi preti. Mi scrive un messaggio, un ascoltatore scrive: che sagge parole. Non lo so. Devo dirti che io con i giovani soprattutto, sai, se avessimo meno fretta e meno voglia di giudicare e anche meno mania di farle psicoterapeuti, non andiamo a rubare mestiere a chi lo sa fare, fossimo più semplici forse riusciremo a fare qualcosa di meglio per noi e per gli altri, ecco, credo. Quindi mi picchio un po' il petto anch'io, ecco, su queste cose. Io credo che poi alla fine forse il problema è che chi va dal prete lavora poi molto sul proprio senso di colpa, e quando vincola così tanto la conversazione col suo sacerdote solo al concetto di colpa, rischia poi di allontanarsi da un altro aspetto che invece è quello su cui magari lavora di più lo psicoterapeuta, che è l'autoconsapevolezza. L'autoconsapevolezza non esclude il fatto che ci sentiamo a disagio, magari in colpa, ma in qualche modo poi dobbiamo anche trovare dentro di noi una risorsa per evolvere, per allontanarci da quell'area che vediamo così vulnerabile. Come diceva Don Mazzi, in una visione un po' trascendente della vita, quello che può dare il prete, cioè il perdono, non può assolutamente essere trovata nella stanza del terapeuta. Don Mazzi, cosa dici? Sì, è chiaro, anche poi il perdono, anche questo tema del perdono, un tema delicatissimo. Siamo convinti che siamo noi a dare perdono, invece perdono fa parte dell'infinito, della grande qualità di Dio, perché è Dio la misericordia, noi a Dio abbiamo dato tanti titoli che forse ma quando un Dio lo reputi padre, capito? E quindi un padre che perdona, che ti ama, quindi questo grande concetto della misericordia è un concetto che rende molto più dolce la vita. E poi io vorrei insistere, ecco, che noi preti troppe volte andiamo a vedere il pezzo di Caino che c'è in ogni uomo, mentre sarebbe meglio che andassimo a vedere che cosa resta di Abele in ogni uomo, anche nell'uomo che sbaglia. E sarebbe una visione più positiva, più serena, più rasserenante. Sarebbe meglio a tutti, ecco, dico io. Io sono d'accordo con te, Don Mazzi. Grazie per essere intervenuto. Grazie a te. Un abbraccio. Ciao. E noi facciamo un salto, direi proprio un saltone, perché andiamo a salutare Nancy Brilli. È una delle attrici più versatili e amate del nostro paese. Ciao Nancy. Ciao. Sei in teatro in queste settimane al Sistina con Sette, uno spettacolo che ha molto a che fare col tema che approfondiamo oggi, perché il tuo Sette è uno spettacolo dove questo numero sta proprio a rappresentare sette donne, sette vite, sette esperienze, sette monologhi come i sette peccati, vizi capitali. Lei è affidata a sette autori diversi che ti hanno confezionato un monologo per ciascuna delle donne che porti sul palco, perché sono tutte donne. Sono tutte donne che hanno a che fare con una madre, o sono madri loro stesse, o hanno avuto un pessimo rapporto con la madre, oppure gli manca la madre, insomma. Loro, il vizio e la madre, questi sono i temi. Senti, ma che sfida ha rappresentato per te questo lavoro, Nancy? Che fine ha rappresentato? Che sfida? Perché io sfida. Penso che a mettersi in gioco in un tema così complesso... Sì, ma guarda, questo era proprio quello che volevo, perché i ruoli che mi venivano offerti sono interessanti, ma per esempio i due bellissimi film di Fausto Brizzi, che ho molto amato e poi adoro lui, sono, io ho due bei ruoli, però siamo in 20. Cioè, qua non si può sviluppare più di tanto un personaggio quando i film sono così corali. Sì. Ormai i film sono così corali, quasi sempre. Vedi Manuale d'amore, vedi, ma quanti te ne potrei dire. In televisione proprio sono 3 anni che non la faccio, e finché non ritrovo una cosa interessante continuo a non farla. In teatro è l'unico momento in cui posso decidere io che cosa voglio fare e come. Allora sì, le sfide a me sono sempre piaciute. L'idea di fare tanti personaggi diversi non mi è neanche nuova, perché l'ho già fatto in passato. Sì. E poi volevo metterci tanta musica, che è una mia grande passione, e io ho sempre cantato, ma sempre, sai, se tu vai ospite in televisione e canti la canzone arrangiata lì per lì dal gruppo, non è la stessa cosa che cantare in teatro con 20 elementi d'orchestra. Immagino, con Alberto Pelai non abbiamo mai provato, ma ciascuno di noi può immaginare che la cosa... Mi piacerebbe da pazzi. Senti, ma tra i 7 peccati capitali che racconti sul palco, a pelle, quale genera maggiori reazioni tra il pubblico? Qual è quello che appassiona di più? O divide di più? Ma appassionano diversi. Ce n'è uno che lascia sgomenti, perché c'è una preadolescente bulimica che prima era secca, poi mangia, perché la madre è un'attivista di Greenpeace e lei non se la fila proprio e difende le balene. Allora lei inizia a mangiare per somigliare a una balena e per essere visibile alla madre, e alla fine si mangia anche la madre. È una cosa che ti lascia leggermente scioccato, ma è un monologo bellissimo di Treni, anche poetico, anche ti fa una pena pazzesca. E poi un altro che diverte moltissimo è quello di Barbara Alberti, in cui Angela Meloni, la protagonista, quello di prima naturalmente è la gola, questo è la lussuria, è una donna trasandata che si è annullata per la famiglia, la quale famiglia l'ha annullata a sua volta, si prende una rivincita, si rifà dalla testa ai piedi e la sua vita diventa un porno musical, guy è scostumato, come dice lei, cioè una specie di Rocky Horror Picture Show. La nostra guardiana del faro. Intanto, Nancy, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontare il loro vizio capitale. E tu in quale ti senti il più rappresentata? Qual è quello più vicino a te? Un vizio molto romano, l'accidia. Io che faccio 12 cose per volta e non riesco a stare mai ferma. In realtà quello che profondamente vorrei dentro di me è stare su un lettino da massaggi a farmi fare tutte le tecniche possibili, dallo shiatsu a rilassante alla riflessologia, non so più che altro. Alberto, da questa risposta che idea ti fai di Nancy? Ma credo proprio di una donna che ha poi bisogno anche di un suo spazio, e probabilmente per un personaggio che è davvero così pubblico, così tutto proiettato sul fuori, deve fondamentalmente vivere per il proprio pubblico nel suo ruolo sociale, andare a cercare uno spazio che è solo per sé, un tempo, un luogo, un modo che è solo per sé, diventa proprio un'esigenza profonda. Nancy, tu porti 7 donne, una per ogni peccato, ma secondo te, se tu avessi dovuto portare, scrivere qualcosa per 7 uomini, insomma, gli uomini vivono, sentono i vizi in modo diverso, ne hanno diversi rispetto a noi donne? Cioè, bisognava ho colto in questa tua esitazione, intanto li passavi in rassegna, li contavi? No, non li contavo perché non ho abbastanza tempo, però insomma mi sono fatta un'immagine, una fotografia mentale, e forse quello che aggiungerei per gli uomini è l'egoismo. Ne stiamo scrivendo diversi, perché anche Don Mazzi ci ha messo l'ipocrisia, tu aggiungi l'egoismo, sembrano sì, che ma questi... non per gli uomini, l'ipocrisia vale anche per le donne. Sì. Però ne stiamo, la lista si allunga. Adori Don Mazzi. Devo dire che sono arrivati moltissimi messaggi proprio a commento delle parole di Don Mazzi. Molti scrivono: un prete illuminato ce ne fossero, abbiamo proprio bisogno di riscoprire non il Caino, come diceva lui, ma l'Abele. Intanto Nancy, tu sarai impegnata sino al 6 marzo al Sistina, sì. Va bene, allora noi ti lasciamo perché sarai anche sempre lì indaffarata. C'è sempre meno tempo per il lettino per i massaggi, ma intanto prima o poi arriverà, no? Sì, e non sai quando arriva, poi non ce n'è più per nessuno. Grazie a Nancy Brilli per essere stata con noi. Buona giornata, Nancy. Grazie a voi, ciao. 800 24 00 24. Ho bisogno che voi mi raccontiate il vostro vizio, quello che vi rappresenta di più, quello di cui anche avete più paura, Alberto. Sì, è molto interessante anche leggere gli sms dei nostri ascoltatori. Ne stanno arrivando molti e molti sollevano questo dilemma che direi dobbiamo rilanciare agli ascoltatori. Per esempio Emi scrive: perché soffocare il nostro ego se non è lesivo per gli altri? E direi che è proprio una frase che racconta bene la trasformazione tra le generazioni passate e le generazioni attuali intorno al tema del vizio capitale, o chiamatelo anche peccato capitale. Cioè, un tempo c'era anche una dimensione morale condivisa nella collettività, per cui una certa morigeratezza, una forma di autocontrollo su ciò che siamo e ciò che facciamo era necessaria per il vivere sociale e non solo per la propria morale, cioè costruiva una sorta di identità collettiva. Adesso effettivamente l'edonismo, abbiamo sdoganato tantissime cose e rivendicare un po' il diritto a presidiare i propri vizi, poterseli gestire fino a che non sono lesivi per gli altri. La domanda in qualche modo è: ma che male c'è? Qualcuno però, anche qualche sociologo, vede in questo rivendicare il diritto a fare ciò che si vuole finché non lede la libertà degli altri, vede anche un po' la radice della decadenza in cui stiamo entrando, cioè quella fase un po' pericolosa in cui, per esempio, ai figli noi non trasmettiamo valori come l'impegno, la capacità di tollerare frustrazioni, e li invitiamo a entrare in un'infinita rincorsa al piacere che, siccome non lede gli altri, me lo prendo tutto e dov'è il problema? Quindi direi è un bel dilemma quello di questa mattina, dove ci sono implicate cose che riguardano il nostro benessere e star bene. Pensateci bene, ogni vizio portato all'eccesso attacca in modo potente il nostro equilibrio psicofisico e quindi ha proprio un versante che poi diventa un po' patologia. Ci sono dei vizi, mi scrive Antonio, che sono diventati quasi delle virtù. Pensateci bene, mi suggerisce. Secondo voi è vero? 800 24 00 24, scriveteci, chiamateci, perché uno di voi riceverà a casa proprio un manuale sul vizio, su cui ci ha raccontato una sua esperienza, una sua emozione, ci ha scritto per una sua preferenza. Adesso è tempo di andare a sentire i mercati, poi il meteo e di nuovo insieme. Essere e benessere. Buon appetito. Buon appetito! È stata una mostra meravigliosamente riuscita, Paolo. Oh, grazie. Sul serio? Grazie. Sono così fiera di te. Grazie. Oh! No, bene, ti può piacere. Se penso che i francesi mangiano alla francese. Oh, ti amo così tanto che ti lascio assaggiare il primo boccone prima ancora di... Com'è buono, eh? Ma cosa ti piacerebbe davvero fare? Mangiare. È quello che mi piace di più. Lo so, è come se lo so. E lo fai con talento. Non ci si. Ma guardati, anche adesso il mio talento ingressa con me. Questa era la magica Meryl Streep nel film Giulia in Giulia, che parla proprio del godimento assoluto, dell'ebbrezza associata al peccato di gola. Anche Lucilla sul nostro profilo Facebook ci ha scritto: la gola, ne sono vittima, ma ne sono arrivati altri molto interessanti. Gabriele mi scrive sempre su Facebook: sono sette, no? Uno per giorno della settimana. Luca mi scrive la lussuria, mentre Bea da Roma ci suggerisce l'ottavo vizio capitale, la pigrizia. Andiamo a sentire invece Marco da Milano, che ci chiama all'800 24 00 24. Marco, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la discussione che è molto interessante oggi. Volevo approfondire la mia sull'ultimo argomento di discussione che avete proposto. Talvolta i peccati possono diventare vizi, possono diventare virtù. Sì. Sinceramente non condivido questo tipo di aspetto e lo reputo un alibi, una scusante, comunque con le persone che tendono ad avere un vizio e volerlo rappresentare così come virtù. Per esempio le persone magari troppo troppo pigre che dicono faccio un lavoro stancante a casa sono pigro, oppure sì, quelli golosi che dicono sono di bocca buona. Sono tutte scusanti, secondo me. Uno avaro che dice metto via i soldi perché possono servirmi, cioè cose così. Perché è un modo, è un modo per non guardarsi dentro, per sfuggire alle cose. Marco, noi vorremmo proprio oggi, dato che arrivano tanti messaggi e io mi aspetto anche tantissime telefonate, vorremmo proprio stilare una specie di classifica, in modo da cercare di capire quali sono i vizi più diffusi tra gli ascoltatori di Essere Benessere. Noi che parliamo sempre di benessere siamo anche un po' viziosi, ma Alberto, Marco ci suggerisce una lettura che è interessante, tante volte ce la raccontiamo un po'. Sì, credo che ritorno proprio sul concetto di vizio. Nel momento in cui una cosa è diventata un vizio, genera proprio una sorta di dipendenza, cioè non riesci più a farne a meno e te ne senti controllato. Io penso che ogni vizio effettivamente ha il suo lato B, cioè nasconde un valore, una dimensione forte, qualcosa che ci aiuta, ci scrutura, ci può permettere anche di vivere meglio, cioè mangiare, gustare il cibo è un'esperienza fantastica. Ecco, facciamo la sessualità, dei vizi, mi la piace. Sessualità nella vita è una dimensione che ci realizza, cioè ci fa veramente godere appieno della dimensione della relazione con l'altro. Voglio dell'amore. Vedere cosa dici dell'acidia. E guarda, tra l'altro, stranamente, se volete cambiare la classifica, continuate a mandare messaggi. Pensa che è in assoluto il vizio capitale più citato dai nostri ascoltatori. E direi che forse in questo momento, dove tutti siamo sospesi dentro una vita in cui ricerchiamo freneticamente soddisfazione e gioia e poi ci sentiamo persi, forse avere l'acidia proprio al primo posto è una buona fotografia di che cosa sono diventati le trappole in cui rischiamo di perdere cosa il senso dite della allora nostra vita. Scrivo sul mio foglietto acidia. Beh, intanto stileremo questa classifica a chiusura di trasmissione. 800 24 00 24. Non siate pigri, a proposito dell'ottavo vizio capitale che ci suggeriva Bea da Roma. Chiamateci e diteci, aiutateci a scrivere questa classifica. Ci aiuta anche Maurizio che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E niente, no, io non so, ho fatto da me la diagnosi, penso di essere un accidioso, nel senso che ho sempre sentito molto il senso del dovere, quindi ho sempre avuto una vita abbastanza intensa, ma sempre con l'idea che non fossero cose molto importanti, e quindi ogni volta che dovevo fare qualcosa mi sentivo disturbato, in quanto io avrei fatto volentieri una cosa meno freneticamente, così. E quindi ho pensato, quando ho sentito Nancy Brilli, che appunto, perché ha un sacco di cose, ma il suo desiderio massimo sarebbe stato quello di svegliarsi su un lettino. Io l'ho portato all'esasperazione già da tanto tempo, infatti pensavo che sulla mia pietra tombale penso di scriverci pure questa è fatta così. Lei è troppo simpatico. Allora, ma no, io quello che amo fare, che ho sempre amato fare, è riscoprire l'acqua calda, nel senso che arrivare, pensare qualcosa o scoprire come fare qualcosa e poi magari venire a sapere che era già stato fatto, però io non lo sapevo, quindi la cosa mi ha dato comunque un po' di soddisfazione. Mi dava soddisfazione, quello è cominciato da quando mi hanno spiegato la differenza tra l'imperativo categorico e l'imperativo ipotetico, cioè in pratica uno fa del bene per guadagnarsi il paradiso come secondo fine, e invece quello che fa del bene proprio perché non può farne a meno, fa parte. E dico, ma io già ci avevo pensato. Allora la cosa che poi l'avesse detta Kant, absit in iuria verbis, la cosa mi ha sollevato. Grazie Maurizio. Noi andiamo da Hassan che ci chiama da Milano. 800 24 00 24. Hassan, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io c'ho un altro argomento, nel senso, sempre nel... Tanto guardi, ne abbiamo sette, ma ne stiamo aggiungendo altri di vizi, per cui allora, la lista è lunga. Per dirla più in breve, il peccato di gola non ce l'ho, quindi c'ho un altro problema, che non sento e non assaggio i cibi. mangio soltanto per mangiare quando ho fame e basta. È finita, peccato. Cioè, soffro quando sento gli altri assaggiare e rimangiare ancora dello stesso piatto. E mi fa soffrire veramente tantissimo quando vedo quei dolci, sento soltanto la dolcezza, lo zucchero, per dire, sì. Nient'altro. Gli odori della vita, i fiori, roba del genere, o gli odori del, diciamola così, delle donne quando passano vicino, non senti niente. Vedi passare le cose senza avere un coinvolgimento. Vedo che Alberto Pellai è molto interessato, perché sembra una cosa assolutamente opposta a quello che è l'antivizioso, sembra un uomo a San che viaggia dentro a un cristallo, proprio che lo isola dall'esperienza della sensorialità. Gli psicologi parlano di alessi timico quando hanno davanti a loro una persona che non prova l'emozione, non sente le emozioni, non le riconosce, mentre Hassan sembra essere un uomo che non sente le sensazioni, cioè non sente. Io direi, Hassan, farei proprio una sorta di rieducazione dei sensi. Per esempio, invece di avere davanti un grande dolce, grandi porzioni di una cosa sola, piccoli pezzettini di tante cose dai sapori diversi, ma proprio piccole piccole cose, e doverli far durare tantissimo. Cito questo perché nell'esperienza della mindfulness, che è una cosa in questo momento molto in voga, ne hai parlato molto anche tu nella tua trasmissione, il passaggio iniziale è prendere un piccolo chicco d'uva sultanina, tenerlo in bocca a lungo con gli occhi chiusi e provare a riscoprire tutto il mondo che c'è dentro a quel chicco e cominciare a immaginarlo e poi a sentirlo. C'è un vizio di cui tutti parlano e che noi oggi ci siamo tenuti un po' per ultimi, perché volevamo attivare così i nostri ascoltatori. È la lussuria. In amore vince chi fugge. Una volta forse. Sa che tutti sono un po' arrugginita. A proposito, io quando potrò fare sesso? Soffro di dipendenza sessuale di tipo ossessivo-compulsivo. Ti ho detto di no, la smetti di insistere! E oggi sono 52 giorni che non faccio sesso. Abbiamo sentito Ambrangiolini dal film Immature, che parla della sua dipendenza. Noi tra poco continueremo a parlare di vizi capitali, ma ci concentreremo sulla lussuria. Anche la lussuria ha le sue note profumate. In linea con noi abbiamo Laura Tonatto, un nome che è una garanzia, il naso per eccellenza. Laura, ciao! Ciao, grazie per questo invito. Laura, io ti dico lussuria e tu che note mi tiri fuori? Quali le rappresentano? La lussuria ambra e tuberosa, perché non solo sono molto sensuali, ma sono inebrianti e quindi stordiscono i sensi. Allora, iniziate a farvi stordire da queste note. Ambra e tuberosa. Noi tra poco, dopo le informazioni sulle strade, ritorniamo subito dopo qui con i vostri messaggi, le vostre telefonate, i vostri vizi, quelli anche che notate nelle persone che vi stanno accanto, quelle che vi seducono, quelle che vi danno fastidio. 800 24 00 24. A tra poco. E mi accompagno con i ritmi tuoi, ti sento in giro, ma dove sei? Con tutte quelle scienze che ti dai, non so chi sei, non su di me, sei sempre più lontano, voglio il tuo profumo. Ricordate, ambra e tuberosa sono proprio le note della lussuria, ce le ha così suggerite Laura Tonatto. Io sento già il profumo. L'ambra, tra l'altro, mi piace tantissimo, ma Alberto, lussuria. La lussuria direi che da sempre è stato considerato il vizio capitale per eccellenza, e quando poi il vizio è stato declinato nel concetto di peccato sembra che non esistesse nient'altro se non quello. Direi che questa è proprio una di quelle dimensioni della vita in cui noi entriamo. C'è una dimensione che è la pulsionalità, l'impulsività, il sentire cose che ti si accendono dentro e che se le assecondi, cioè non ci metti mai la testa sopra, probabilmente ti portano in giro nella vita, nel mondo, nell'esperienza, nell'esistenza, ma rischi anche di perderti. Era molto interessante il personaggio di Ambrangiolini dentro al film Immaturi, perché effettivamente parlava di una sessualità che non era neanche più lussuriosa, cioè considerate proprio il confine poi tra ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male. Quando la lussuria diventa patologia, cioè la sessodipendenza, non è più un'esperienza dove senti i profumi, dove senti gli odori, dove senti le emozioni, ma semplicemente dove affoghi dentro perché non riesci a venirne fuori, e a quel punto sei in trappola, cioè quello è un vizio, un po' come il gioco d'azzardo di cui non riesci a fare a meno, ma che se tu ripensi e riguardi che cosa sta dando alla tua vita, non ti sta dando veramente niente, te la sta portando via. Parlate di un vizio capitale che è stato ampiamente sdoganato, ci fa notare un ascoltatore al 349-238-6666. E riflettete sul fatto che nel momento in cui è stato così tanto sdoganato, noi non abbiamo, è il momento anche in cui noi abbiamo la maggior patologia del desiderio sessuale e anche della funzionalità sessuale, impotenza, eiaculazione precoce, patologia del desiderio, nel momento in cui apparentemente la sessualità è esibita, venduta, mostrata in ogni angolo. Luca dalla provincia di Grosseto, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie Luca. Io volevo soltanto dire, l'argomento veramente si presta a discussioni, a ragionamenti sconfinati, sì. Ci sono bibliografie complete di queste cose, però io più che del lato B di ogni tipo di vizio, parlerei di una soglia, cioè nel senso c'è una soglia entro il quale è sostenibile parlare che non è un vizio, ma magari è una pulsione legata alla vita, legata ai momenti anche dell'età particolari, alla scoperta anche di noi stessi e anche dei nostri limiti. Quando si supera una certa soglia, allora magari è veritiero considerato vizio, e magari il nostro malgrado ci porta ad eccedere su uno dei vizi, mettiamo l'ira, mettiamo la gola. Quindi, come ci scrivono alcuni ascoltatori, può essere la quantità il limite tra vizio e virtù? È la quantità, ma più legata alla finalità, perché avere una giusta funzione sessuale rafforza anche un concetto di matrimonio, certo. Di unione. Senta Luca, però lei mi deve dire, mi piacerebbe tanto che mi dicesse qual è il vizio che più la intriga, perché io ho Laura Tonatto e ad ogni vizio noi così facciamo corrispondere una nota, poi ciascuno di noi, poi per carità abbiamo detto che la lussuria ha le note dell'ambra e della tuberosa, poi di queste indicazioni ciascuno poi farà e le utilizzerà come meglio crede. Qual è il suo vizio? Guardi, io purtroppo sono scontato, io nasco pigro e da quando ho 12-13 anni che facevo le scuole medie, che mi faceva una fatica bestiale alzarmi la mattina per andare a scuola, che non vedevo l'ora di andare in pensione, e tu pure ci penso che almeno sono in pensione, faccio quello che voglio ai tempi, sì, allora un bambino, già un bambino che sogna la pensione. Laura, che nota possiamo dare? E la nota lenta, indolente del sandalo indiano per questa cosa, perché è una tonalità che porta alla contemplazione, al proprio dolce far niente, ecco, direbbero i nostri nonni. Pietro, da Perugia, buongiorno. Buongiorno, complimenti vivissimi. Ciò che ha detto il professore ha detto tutto, io non so cosa aggiungere. Ma no, che si può aggiungere, Pietro, si può aggiungere, non si faccia, che sia un po' superbo. Ecco. La lussuria, secondo me, incentrata moltissimo sul sesso, e il sesso è quello che muove il mondo, e credo che la vera lussuria sconfina col peccato, perché se no che lussuria è? Se gli si dà un confine, credo che non, è una lussuria non completa. E siccome è stato detto tutto, vorrei chiedere se la lussuria è più maschile o femminile. Almeno questo non è stato detto e vorrei sentirlo. Ecco, bravo. Pietro, ottima mossa. Alberto. Ma io direi che la possiamo declinare in sessualità incontrollata, allora è maschile, in sensualità sofisticata, allora è femminile. Però noi abbiamo dato due note, l'ambra e la tuberosa, Laura, che mi sembrano molto femminili. Molto femminili. E parliamo di lussuria maschile, mi viene in mente D'Annunzio che nel piacere, per preparare la stanza dove doveva ricevere con tanto ardore, brucia il ginepro arso. Il ginepro arso. Arso. Il ginepro arso nel camino. Perché? Perché il ginepro è di nuovo un legno inebriante. E D'Annunzio, questo è un maestro, che vuole stordire di nuovo i sensi, questo incontro che non deve avere freni inibitori. Abbiamo dato anche delle indicazioni, non so se avete il camino, ecco, ma chi ha il camino e vuole, no Alberto? Ricordatevi il ginepro, mentre voi vestitevi di ambra e tuberosa. Alberto, intanto noi dobbiamo scegliere il messaggio a cui in collaborazione con IBS daremo il manuale che più rappresenta quel vizio. Quale abbiamo scelto? Ma guarda, sai che sono tuttora incerto. Che intanto io voglio chiedere a Laura di commentare e di trovare un'alternativa, quella di Giorgio che mi scrive: secondo me la nota della gola è il profumo di ossobuco con risotto. Un naso come Laura Tonato forse magari avrebbe qualche altra idea più profumata? Ma insomma, ognuno di noi è veramente libero di esprimere l'olfatto e i ricordi olfattivi, soprattutto con il crede, anche perché ognuno di noi ha delle esperienze soggettive, personalissime a riguardo. Negli anni 90 c'è stata una grandissima esplosione di note gourmand, quindi note del gusto, e uno dei profumi più venduti di questo periodo era a base di cioccolato, quindi le note gourmand sono proprio quelle del gusto e dell'olfatto, che sono due sensi assolutamente fratelli e vicinissimi, che vanno a braccetto, quindi tutte le note che hanno una tonalità gustativa, come il cioccolato, ma come la vaniglia, come lo zafferano, abbiamo tutti i tipi di frutta, per esempio la pesca, il pompelmo, e sono veramente tonalità che ci ben rappresentano questo. Assolutamente il gusto. Dobbiamo salutarci, Alberto, rapidissimamente. Mandiamo il libro a Marco, che ci ha segnalato come suo vizio l'acidia. Pervaso quotidianamente da questo malessere, riesco a superarlo parzialmente pensando, stando il più possibile insieme ai miei figli. Glielo mandiamo perché così imparerà attraverso il libro a capire se la sua è veramente acidia o forse non è una depressione mascherata. Ringrazio Pietro Alla Corte, in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, voi che ci avete come sempre aiutate, siete intervenuti. Io vi aspetto domani, dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.